America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La prevenzione è essenziale, quindi la mammografia, l'esame preventivo più importante, che a volte non è sufficiente, soprattutto per le donne giovani, per cui bisogna insistere anche sulla storia genetica delle donne e quindi valutare la familiarità ed eventualmente effettuare il test genetico per vedere se una donna giovane è predisposta ad avere un tumore mammario. Vi ho voluto fare ascoltare un vecchio audio di Virgilio Sacchini, professore al Memorial Sloan Kettering, esperto di cancro al seno. Perché? Beh, perché il tema della prevenzione è un tema che ho affrontato spesso qui ad America 24 e voglio affrontarlo oggi in modo particolare perché lo leggo a una notizia che, diciamo, non è una notizia, come vedete non sono partito dalle notizie politiche, economiche o da notizie più in generale che riguardano l'America, ma parto da una notizia che mi riguarda direttamente, cioè in una visita di controllo è stato trovato un tumore alla prostata e fra poche ore, oggi stesso, entrerò in sala operatoria per rimuoverlo. Ecco, non vi sto dando questa notizia per drammatizzare, ma voglio darvela per riflettere insieme su quanto sia importante la prevenzione. E dunque vorrei che questo mio messaggio, visto che ve l'ho dato in passato, nel corso degli ultimi anni, abbia un significato, abbia un impatto, davvero costringa tutti coloro che mi stanno ascoltando a rendersi conto che prevenire le malattie è fondamentale, oggi è essenziale, ci sono le tecnologie per farlo. E vi parlo di questa cosa anche perché in Italia mi sono accorto di cancro non si parla, è quella malattia, una brutta malattia, si tende, come dire, a ignorarla, invece bisogna affrontarla con grinta, sapendo che ci sono delle buone possibilità oggi di sconfiggerla, soprattutto per alcune, spero naturalmente che sia il caso della mia, almeno così mi hanno detto i dottori, e dunque sono alquanto ottimista. Come sono arrivato a questa situazione? Beh, perché nel corso di una normalissima visita, e qui lasciamo un momento da parte la mammografia e il tumore al seno di cui vi ho già parlato, qui parliamo agli uomini, ma parliamo alle mogli, alle sorelle, ai figli, perché tutti devono essere molto coscienti di questa cosa. In una normalissima visita, quindi fate sempre le visite dal dottore almeno una volta l'anno, fate l'esame del sangue. Nell'esame del sangue dovete avere il PSA, che è l'indicatore che dà un'idea se è possibile che ci sia un tumore alla prostata. Se al di sopra del valore 4 vuol dire che si entra in una situazione, come dire, complicata, se invece è al di sotto la situazione dovrebbe essere rassicurante. E così era il mio caso. Quando andai alla mia normale visita di controllo, il PSA era ben al di sotto di 4, però mi ero accorto di una accelerazione, cioè era passato da 1 a 2, da 2 a 3, e l'accelerazione è un altro fattore molto importante per determinare, ma chissà, forse c'è qualche cosa di sospetto. E dunque sulla base di questo sono stato io stesso a insistere col medico generico dicendo, ma andiamo, facciamo qualche cosa di più. E sono stato fortunato perché in effetti, agendo, giocando d'anticipo, mi trovo oggi in una situazione che dal mio punto di vista è rassicurante, sarà sgradevole andare a operarsi, naturalmente è sempre poco piacevole, però diciamo che le probabilità di avere un'operazione ben fatta, un'operazione tra l'altro che ho scelto di fare con le tecnologie modernissime, con la robotica, che consentono di essere straordinariamente precisi, ecco, dovrebbe dare delle buone probabilità di successo. Parliamo dunque di prevenzione, perché la prevenzione c'è marcata su alcuni tumori. Sentiamo Silvia Formenti. Interestingly enough, triple negative breast cancer has shown to be interesting from an immunological point of view. Ecco, Silvia Formenti alla Cornell University sta facendo ricerche avanzatissime nel settore della immunologia e lei qui dice c'è una tendenza a favore della mastectomia in questo paese che forse è eccessiva. Forse sì, forse no. Di nuovo è la donna che deve scegliere, ma la donna potrà scegliere sulla base di una mammografia, ma anche sulla base di un'analisi, di un esame genetico che identificherà una predisposizione ad avere un tumore al seno, se se una madre, una zia, una nonna lo hanno avuto prima della donna che sta facendo l'esame. Di nuovo, la prevenzione, la mammografia, qualcuno dice ma no, la mammografia fa male perché poi ci sono i raggi, ti fanno degli altri problemi. Non è vero, è molto meglio farla ed è molto meglio liberarsi presto e per tempo di un tumore che altrimenti potrebbe andare ai linfonodi e andare poi in metastasi, e allora la situazione diventa molto più complessa. Quali sono gli altri tumori curabili se c'è la prevenzione? Per esempio il tumore al collo dell'utero, il tumore cervicale, sempre nelle donne, è curabilissimo, fatevi i controlli, perché se si identifica questo problema per tempo ci si salva, altrimenti si rischia davvero di passare degli anni di grande sofferenza. Un altro tumore che può essere sconfitto è il tumore al colon, attraverso la colonscopia. È una procedura, come dire, sgradevole, perché occorre introdurre attraverso la parte rettale una sonda, ma questa sonda fa miracoli, perché esplora attraverso una telecamera e delle luci minuscole che cosa sta succedendo nel colon. Se identifica dei polipi, li levano immediatamente durante la colonoscopia. Il pericolo qual è in quel caso? Ignorare questi polipi, non fare la colonscopia e poi ritrovarsi magari con un tumore maligno che a quel punto è molto più complicato da rimuovere, bisogna tagliare il colon, bisogna fare delle operazioni molto più complessi. Ma la prevenzione non riguarda soltanto il cancro, i tumori, la prevenzione riguarda moltissimo le malattie cardiovascolari. Lì le raccomandazioni le conosciamo: dieta, mangiare bene, esercizio e così via. Però ci sono anche dei test. Un test a cui dovreste sottoporvi almeno una volta ogni tot anni è il cosiddetto stress test, cioè si corre su una macchina e il cardiologo fa un esame di quella che è la performance cardiaca. Altre malattie che possono essere controllabili attraverso l'analisi del sangue, cioè il diabete per esempio, l'esame della glicemia. Potrei continuare all'infinito, ma mi fermo qui, anche perché fra poco dovrò recarmi a occuparmi di una certa cosa. Ecco, lasciatemi dire che sono ben felice di potermene occupare adesso, di potermene occupare per tempo, come mi hanno detto i dottori, e vi lascio con questo importante incoraggiamento dedicato di nuovo alla prevenzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come vi ho detto, dovrò occuparmi di una piccola operazione e dunque mi dedico la canzone oggi a me stesso. Di Santana con Steven Tyler, Just Feel Better. She said I feel stranded. Vi saluto e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!